Ciao a tutti, sono Elia Viviani e purtroppo devo dare la linea a Gironimo. Marta Vacigalupo, cosa stai facendo con questa gigantesca valigia che ti porti appresso dall'inizio del Giro d'Italia? Mi rattristo. All by myself, I'm gonna be all by myself. E niente, ragazzi, il mio altro dovere mi chiama e quindi questo giro lo proseguirò in smart worky. In smart worky, quindi ci stai salutando così? No, non fate i finti che mi avete scaricato qua, mi hanno anche lasciato a 6 km dalla stazione per non cambiare il percorso, poi senza di me sono persi. Non è così bella giornata di sole, ci sta anche farsi una passeggiatina. Ma anche perché faceva parte del regolamento di questa giornata, ti avremmo portato in furgone fino a un certo punto, poi scendi e prosegui con le tue gambe. Vado in parata, c'è un pezzo in parata, però adesso sono in filo diretto con Adam Hansen e credo che dirà che mi dovete accompagnare fino alla stazione. Pelacci? Cosa? Perché tutti... non parli in questi momenti, sei commosso. Perché è triste. Sono molto triste. Resti parte del podcast, lo sai per sempre. Vi libererete di me. Ah, per sempre mi piace, bene. Quindi le cornucopie sono andate bene. E no, non vi libererete di me facilmente, basta. Ormai sono laureata in pelacciologia e quindi devo mettere a frutto tutte le competenze che ho. Follia. Ci dividiamo adesso. Lasciamo Marta a Bolzano. Io me ne vado con il giro E perché loro sì che mi vogliono bene. E ci risentiamo poi in realtà tutti i giorni con le tue rubriche. Lo diciamo da subito così che... perché sennò la gente poi schiaccia stop adesso e non ci conteggiano neanche la puntata come ascoltata. No, certo, non vorrei che... non vi preoccupate, sto giromantando, sono già pronte le ultime carte. Ci siamo. Non... Stai partendo per andare a prendere informazioni su Pogacar in altri luoghi, da quanto ho capito. Ragazzi, ma le mie fonti sono tutte ben organizzate, pronte, ho stabilito connessioni importanti, molto più importanti di quello che pensate. E allora via, la corsa dei furgoni è finita, adesso inizia la tappa successiva, Marta va in fuga e noi partiamo. Andiamo. Amiche e amici del ciclismo del Giro d'Italia, del numero 3, dei 3-3, dei Secret Chiefs 3, dei Formula 3, degli Spaceman 3, sì, siamo rimasti in 3, come avete sentito Marta Vacigalupo ci ha salutato, almeno nella sua presenza fisica, ma sarà con noi fino alla fine del Giro d'Italia, sarà con noi anche in questa puntata, la risentirete, 3 come sarebbero le tappe che avrebbe vinto Tadej Pogacar in questo giro, se non ne avesse vinte altre 2, quindi sono 5, ma vabbè, se no, sarebbero potute essere 3. In onda dalla stanza numero 3 del Garni Morene di Selva di Valgardena, una nuova puntata di Gironimo, il podcast di Al Vento dedicato al Giro d'Italia 2024 con il supporto di Shimano e le voci di Bidon Ciclismo allo Stato Liquido, voci tra cui quella più nota ormai a livello mondiale è quella di Michele Byron Moreno Callisto Pelacci. Sai che 3 sono anche i corridori rimasti in gara al Giro d'Italia se non ce ne fossero altri 143? Giusto, notizia ti do. Statistiche, fortissimo sulla statistica. L'altra voce che ci accompagna costantemente con la frordi acrostico è Leonardo Piccione. Eccomi qua, buonasera. No, notavo la voglia che ha stasera Michele Pelacci. Non ha detto nemmeno buonasera o ciao, buongiorno. Subito partito con la prima chicca della puntata. Lo vedo forte, carico. Pelacci è in forma perché gli abbiamo fatto prendere la seggiovia. Ma anche di questo ne parleremo nel corso di questa puntata. Non parleremo di cornucopie ricevute perché mi sembra che un paio di giorni che... Vabbè, dai, sono luoghi difficili da raggiungere. Li stiamo perdonando, siamo buoni. Qui la redazione si spacca. Comunque, di cornucopia ne parleremo abbondantemente nei prossimi giorni con tutte quelle che ci recapiterete. Fortunatamente arriviamo da Livigno, dove l'alcol è detassato, quindi ci apriamo una birretta acquistata alla partenza e ci lanciamo verso una nuova tappa di Giro d'Italia, la tappa numero... ormai completamente credo perso 16. Il conto, non so nemmeno il giorno della settimana. È la tappa numero 16, giorno 21 maggio 2024, tappa bella, con un finale movimentato e anche emozionante. Ma adesso ne parliamo, cominciamo dall'acrostico. Difficile oggi, Santa Cristina Valgardena. Forse quello più lungo in assoluto, vado a memoria, ci ho provato, ecco qui. Serve a nulla tirare avanti come redatto, infatti Stelvio tagliato. I nostri affiorano vistosamente agghindati. Lulù, Giulio, avventurieri ripresi dall'ennesimo numero annientatore. Acrostico lungo oggi, Io mi sono perso a metà, devo dirlo. Era troppo difficile. Ho raccontato la storia, no? Prima il taglio della tappa con lo Stelvio e poi i nostri agghindati, perché si sono coperti. Oggi abbiamo visto i corridori ben coperti, visto il tempo, faceva freddo, pioveva. Anche noi abbiamo preso acqua in misura molto inferiore rispetto ai ciclisti. Ho nominato Lulù e Giulio tra i protagonisti, Giulio Pellizzari ovviamente, ripresi dall'ennesimo numero annientatore, perché anche oggi Tadej Pogačar non ha lasciato nulla agli avversari, nemmeno le briciole. Mi piacerebbe però risponderti per una volta, perché oggi abbiamo avuto tanto tempo, per cui siamo stati anche appresso ai gruppi Telegram, risponderti con una sfida, con un acrostico che è passato dal gruppo Telegram di Bidon, passato prima dell'arrivo di tappa, per cui è un proto acrostico, potremmo chiamarlo così, che l'ha scritto 42 is the answer, è il nome dell'utente, non chiedetemi il significato, perché siccome andiamo nelle inquietudini rosa. Se allora non troviamo accordi, ci ritroveremo in strada tra infinite nuvole alpine, inquietudini nuove, virando a Laas, che è da dove è ripartita la tappa, grandiosi acquazzoni rimangono dove errano nuovi attaccanti. Bello, molto bello, preventivo, perché ecco, una delle difficoltà di questo giochino che maledetto a me ho deciso di fare è che bisogna adeguarlo poi a quello che succede durante la corsa, almeno in parte. Ma entriamo nel vivo di quello che è successo. Il modo migliore, che noi conosciamo almeno, è sentire le sillabe d'amore di Michele Pelacci, che ci riassume la tappa numero 16 del Giro. Gran freddo, pioggia, nevischio sul passo Umbrail fanno preferire un accorciamento della tappa. Si comincia a Lasa e sulla fondovalle della Val Venosta, viste le temperature, è ovvio che attacchi per primo Marco Frigo. La fuga buona però è un'altra ed è composta da Piccolo, Ballerini e i soliti noti, Alaphilippe e Maestri. In gruppo tira la Movistar e il vantaggio dei quattro non arriva mai neanche a due minuti. Sulla salita di Passo Pinei prova a evadere dal gruppo Pelayo Sanchez, ma in un gran momento Movistar è Nairo Quintana che fa forcing per inseguirlo. L'altra faccia della medaglia del movistarismo è la sfiga, ed eccolo arrivare. Quando attacca Costiù, Pelayo prova a inseguirlo, ma ha un problema meccanico. All'attacco del Montepana rimangono in quattro davanti, due italiani e un francese. Pellizzari, Scaroni, Costiù raggiungono Alaphilippe. Costiù è di nuovo il primo a lanciare l'attacco, ma Pellizzari rimonta e sembra poter vincere, se non che, da dietro, dopo il forcing di Maika, attacca Pogačar. Sembra andare a metà gas, ma raggiunge comunque Pellizzari e lo supera. È la quinta vittoria, quarta in maglia rosa, per Tadej Pogačar. Eh sì, quarta in maglia rosa, quinta vittoria di tappa, Tadej Pogačar ha vinto. Le ha contate all'arrivo. Qualcuno diceva che sembrava Berlusconi quando presentavano non mi ricordo quale decreto. Effettivamente sì, ci assomigliava molto. Sì, va bene questo paragone, lo mettiamo da parte. Leggo l'ordine d'arrivo. Vabbè, è un po' il barzellettiere del gruppo anche Pogačar, dai. Anche, però con questa sua spietatezza che forse emerge sempre di più. Lui nasconde dietro questo suo sorriso una spietatezza veramente da killer in questo Giro d'Italia, veramente incontestato. Allora, Tadej Pogačar ha battuto Giulio Pellizzari e Dani Martinez, che sono arrivati insieme. Pellizzari è riuscito a battere in volata Martinez nonostante avesse attaccato molto prima. Quarto, un altro degli attaccanti di giornata, Cristian Scaroni, a 31 da Pogačar, 31 secondi. Quinto, il migliore degli uomini di classifica è Antonio Tiberi, che ha perso 33 secondi da Pogačar. E sesto, un sorprendente Tymen Arensman, che ha lasciato alle spalle il suo capitano, Geraint Thomas, ed è arrivato sesto a 38 secondi da Pogačar. Settimo, Caruso, a 39 secondi. Ottavo, Michael Storer, anche lui molto bene oggi, 42 secondi di ritardo, insieme all'altro degli attaccanti che forse potevano giocarsi la tappa, a un certo punto sembrava potessero farlo, Iwan Costiu dell'Arkea. Chiude la top 10 Valentin Paré-Peintre a 45 secondi da Pogačar. Geraint Thomas, abbiamo detto, si è staccato anche da Arensman, oltre che dagli altri uomini di classifica, è arrivato insieme a Ben O'Connor e all'altro parapente Aurélien a 49 secondi da Pogacar, e quindi ne ha persi 33 da Dani Martinez. Significa che ha perso anche il secondo posto momentaneo in classifica generale, Geraint Thomas, a vantaggio del campione nazionale colombiano. Ha perso anche 16 secondi da Antonio Tiberi oggi, Geraint Thomas. Tra gli altri di classifica un po' in difficoltà, Bardet e Zana, che hanno perso circa 1 minuto e 20 da Pogacar. Per effetto di tutto questo in classifica generale, forse dal fruttivendolo avete sentito che Tadej Pogacar è in maglia rosa e ha stasera 7 minuti e 18 su Dani Martinez secondo e ne ha 7 e 40 su Geraint Thomas terzo. Quarto è Ben O'Connor a 8 minuti e 42. Il quinto in classifica generale è Antonio Tiberi e ha più di 10 minuti dalla maglia rosa, per la precisione 10.09. Sesto, Tymen Arensman, in netta ascesa come abbiamo detto. Dal settimo posto in poi, i corridori che invece sono un po' meno brillanti in questi ultimi giorni, Romain Bardet, Filippo Zana, Einer Rubio e a chiudere la top 10 Jan Hirt. Ultima annotazione sulla classifica, Tymen Arensman stasera ha 2 minuti e 57 da Geraint Thomas. Arensman è sesto, Thomas è terzo. Il trend è a favore del ragazzo olandese che abbiamo detto sta andando sempre più forte. Quindi la questione terzo posto, perché il secondo di Martinez comincia a essere sempre più stabile e confermato, almeno finora. Il terzo gradino del podio potrebbe essere ancora conteso e abbiamo Thomas, O'Connor, Tiberi e a questo punto teniamo nella lotta per il podio anche questo Arensman in crescita. Chi ci può riassumere la tappa in modo diverso, in modo stravagante, mirabolante, astrofisico? Astrofisico addirittura. Sì, io sai che tutto quel calderone di cose lì lo metto nelle scienze, diciamo, non ufficiali. Non ufficiali, come l'astrofisica. D'altronde. Ok, sì, perché abbiamo appena ricevuto un file audio direttamente dal treno Verona-Genova, credo fosse la tratta prevista, dalla nostra Marta Bacigalupo. Le prossime volte ce lo manderà dal suo smart walkie, quest'oggi dal treno, per cui ci sarà sottofondo un po' di c-c-c-c-c-c, ma so che tutti lo apprezziamo, ed ecco la giromanzia di oggi. Cari amici della giromanzia, il treno è sempre il treno, e non stiamo parlando in questo caso del treno della UAE con la locomotiva Maika, ma stiamo parlando di un treno vero, perché io oggi non ho fatto la gara dei bus, non ho fatto quella dei van, ma ho fatto quella dei treni. E quindi scusate se sentirete un po' di casino in sottofondo, ma anche in treno la giromanzia è sempre pronta a giromantare, perché ho qui il mio mazzo e estraggo subito il tarocco per voi. Il tarocco di oggi è l'arcano maggiore del Papa, e direi che è decisamente al rovescio, perché ci porta significati di rigidità, insicurezza, quindi di tutte le polemiche che ci siamo trascinati per buona parte della giornata, dell'incertezza di percorso, si parte, non si parte, opzione A, B, C, D, si parte di qua, no, si parte un po' più avanti, si neutralizza questo, quello, insomma è stato un gran casino tutto il giorno. Poi abbiamo avuto anche un po' la stagnazione, che forse è quella che ben rappresenta la tecnica Movistar, ahimè, di Tactically We Are Perfect, come dice il ben noto meme. Ma verso la fine di questa tappa la carta fa un giro dell'orologio e il Papa è assolutamente al dritto, perché il Papa è la carta che significa spiritualità, consiglio, saggezza. E in questo caso, dopo l'azione pazzesca in cui tutti un pochino abbiamo creduto nel nostro Pellizzari, e dopo aver visto in qualche modo Tadej che ancora una volta ci spezzava il cuore in questo finale di tappa pazzesco, il Papa libera tutta la sua autorevolezza, la sua saggezza, e è una figura maschile forte, proprio il significato della carta, e questa potere di istanza superiore che rivela i misteri a chiunque glielo chieda, fa passare il suo messaggio con il meraviglioso gesto del rivelazione, passaggio di saggezza e autorevolezza con il regalo della maglia. E anche qua una mezza lacrimetta ce l'abbiamo lasciata. E allora Marta ha estratto il Papa, ha parlato di saggezza e in effetti oggi, forse per la prima volta, Pogacar è sembrato vecchio, o quantomeno più vecchio, perché aveva questo ragazzino del 2003 con cui si è confrontato a un certo punto sulla strada e dopo la linea d'arrivo, e non è più il ragazzino, per una volta non è stato lui il ragazzetto, era un altro, era Giulio Pellizzari, e Pogacar l'ha detto: io sono più vecchio, sto crescendo. E tra le cose che stanno cambiando, sto invecchiando, credo abbia detto proprio così Pogacar. Ha detto: tra le cose che cambiano con l'età dentro di me è che adesso voglio seguire sempre più i piani alla perfezione. No, se prima era un po' più fantasioso e si dava da fare così allegramente, adesso è più pianificatore nelle sue azioni, che è se vogliamo anche qualcosa di sorprendente visto il personaggio, è qualcosa che non era parte del suo carattere ma gliel'ha un po' instillato la sua compagna di vita, che è molto più come dire organizzata di lui, e Pogacar adesso ama eseguire i piani. Oggi non era il piano della UAE vincere questa tappa, però la Movistar ci ha messo lo zampino tirando tutto il giorno per provare a vincere con Pelaio, vincere con Nairo, comunque provare un'azione che poi è stata quella di Pelaio, abbiamo visto com'è finita con quell'incidente, e poi Pogacar si è ingolosito, ha visto l'occasione lì a portata di mano, ha allungato la mano, l'ha presa e insomma ha vinto di nuovo. Quindi non ha seguito il piano? In linea di massima, in definitiva, non ha più seguito il piano. Quindi non sta invecchiando. Quindi, se vogliamo, possiamo dire che non sta invecchiando. Sì, potrebbe essere una conclusione. O forse non ha seguito il piano perché l'arrivo era in salita. Scusate, questa era brutta. Era brutta, ma Pelaio, all'arrivo, ha parlato delle tattiche della Movistar dicendo che volevano controllare la fuga. Insomma, abbiamo visto che tutta la fondovalle della Val Venosta hanno tirato Gaviria, addirittura, Lorenzo Milesi, perché Einer ci ha detto che stava bene. Filippo, tu sei il più grande fan di Einer, Einerologo, diciamo. Non credo di potermi arrogare né l'uno né l'altro titolo, e non ne ho idea, evidentemente. Capita, cioè io ho tanti anni che seguo il ciclismo e ho visto tante volte corridori dire caspita, oggi la gamba gira, e poi dopo, quando si alza il ritmo, la gamba non gira più. Tutti sono stati un po' sorpresi. Una delle capacità dei corridori è proprio quella di riuscire a interpretare questa cosa, no? Di riuscire a capire quando la gamba gira davvero o no. Però l'ho vista talmente tante volte che non mi sento neanche più di criticarla come cosa. Penso che io, che le corse le ho sempre guardate dal divano, penso che non sia affatto una cosa facile capire quanto davvero la gamba sta girando. Per cui mi viene da immaginare che la tattica Movistar sia stata tarata su delle determinate sensazioni che poi non si sono rivelate quelle corrette. Sì, tutti sono stati sorpresi un po' da questa tattica, anche Pogacar ha detto: sono stato sorpreso da quello che ha fatto la Movistar, anche Geraint Thomas ha detto: non mi aspettavo che una squadra come la Movistar prendesse in mano la corsa oggi, e hanno fatto bene a tentare, e quindi va bene, io sono come dire un sostenitore del coraggio che a volte poi confina con la stoltezza, perché si può vedere da due punti di vista diversi questa azione di oggi della Movistar, coraggiosi o stolti, a volte queste due cose confinano. Fatto sta che a un certo punto c'è stata anche una scelta da parte della UAE e di Pogacar e Maika in particolare, che si sono proprio parlati all'inizio del tratto finale, gli ultimi 2 chilometri verso Montepana, e lì hanno deciso evidentemente che questa tappa andava vinta o poteva essere vinta, e i fuggitivi che in quel momento erano davanti, cioè Pellizzari, Scaroni e Costiù, perché alla Filippi intanto si era staccato, forse vittima dell'assenza di guantini, abbiamo visto soffrire molto freddo alle mani. O dell'assenza di maestri, forse. O anche forse ha sofferto l'assenza di maestri. Dicevo, Pogacar ha scelto di vincere anche questa tappa. Poteva non vincerla, sì, no, doveva vincerla a un certo punto, era obbligato visto come si era messa la corsa? Non era obbligato. Rafał Majka ha ammesso che, quando si sono parlati, Taddei ha detto che voleva che fosse Majka a vincere la tappa, ma Majka gli ha risposto: guarda, ho già tirato abbastanza, sono stanchissimo, vai tu. Già Majka gli ha detto. Bella questa. Bellissima proprio. Pogacar stamattina a Livigno ha messo su Instagram una storia con la canzone Cookies and Cream di Guè, Anna e Sfera e Basta. Oggi secondo me gli hanno portato biscotti e creme dolci alla Movistar, perché praticamente gli hanno consegnato la vittoria, ragazzi. Mi spiace, io fossi in Pogacar dico, cavolo, devo fare solo 2 chilometri di sforzo, sforzo neanche tutta magari, per vincere una tappa. Certo che lo faccio. Ho rotto il cuore al giovane Giulio Pellizzari, gli è spiaciuto molto anche lui, evidentemente. Però lo faccio. Non lo so, io oggi per la prima volta ho avuto la chiarissima impressione, e parlando di un'impressione lascia il tempo che trova sempre, che Pogacar non è che volesse proprio vincerla questa tappa. Cioè, io ho avuto l'impressione che lui si sia trovato nel momento in cui, per come corre abitualmente, per la dinamica di questa corsa e di questo Giro d'Italia, come si è svolto fino ad ora, si sia trovato in quel momento in cui con Maika, poi non sapevo di questo scambio che mi hai detto adesso Michele, insomma, si è detti è il momento di alzare il ritmo. Però quando Pogacar si è tolto di ruota agli avversari per la classifica generale, cioè non prendiamoci in giro, non ha fatto lo scatto spaccacatena che altre volte gli abbiamo visto fare, però si è tolto di ruota agli avversari, ha fatto un'accelerazione comunque sufficiente per liberarsi di tutta la concorrenza diretta. E si è lanciato verso il buon Pellizzari. Cioè, avrebbe potuto prenderlo in 300 metri Pellizzari, invece c'è andato piano, non sembrava mai, anche la sua posizione fisica era molto alto sul manubrio, era come se non stesse spingendo quanto può spingere Pogacar. A un certo punto addirittura io ho avuto la chiara impressione che si stesse scaccolando mentre aveva Pellizzari davanti. È ovvio che poi una volta che l'ha preso, che doveva fare? Tirare i freni? Cioè, poteva, nel senso... Tutto si può fare, però immagino... Cioè, l'errore, se errore vogliamo chiamarlo, perché un errore non c'è, stiamo parlando di un corridore che ha vinto una tappa, per cui un errore non c'è e non ha neanche dato quella dimostrazione di cattiveria impietosa che abbiamo visto da altri corridori nel momento in cui riprendono i fuggitivi nel finale. Ecco, forse la... Come dire, il momento in cui il ragionamento è andato un po' a ingarbugliarsi è stato quando lui ha fatto quell'accelerazione, e quella l'ha fatta. E io ho avuto questa impressione, tutta da verificare, potrebbe essere chiaramente un mio errore completo, questa mia lettura, che lui abbia fatto questa cosa mosso dai fatti della corsa, ma poi non sapesse più come gestirsela questa cosa. Sì, è vero. Io credo che lui aveva almeno due possibilità per non vincere questa tappa, cioè non attaccare. Ritirarsi non... stamattina. Quella è la terza. No, appendere poteva... la bici al chiodo. No, poteva sicuramente evitare l'azione di Maika e quindi attendere eventualmente l'attacco di un Dani Martinez che oggi si vedeva lì bello sgambettante, e in quel caso seguire Martinez era assolutamente autorizzato a riprenderlo e rilanciare e vincere la tappa. Quindi poteva stare a ruota, attendere l'attacco degli avversari e poi in seconda battuta poteva provare a tenere con sé il più possibile Pellizzari ed eventualmente lasciargli la vittoria di tappa. Se fosse andata così, però, il rovescio della medaglia, e avremmo detto anche questo è non rispettare gli avversari, perché quando si lascia e non si dà il massimo e ci si trattiene, è anche un sintomo di forse mancato rispetto. E ci sono tanti... Come direbbe il fratello di Pogacar, quello di inizio giro, e se vince perché vince, se non vince perché non vince, se... Eh sì, è vero, non si può mai accontentare tutti. Non ci si accontenta mai, e fatto sta che un pochino il cuoricino ce l'ha spezzato togliendo questa vittoria a Giulio Pellizzari, che però abbiamo visto subito dopo l'arrivo felice, no? Emozionato, in lacrime di gioia più che di tristezza per la vittoria mancata. Sì, comunque lacrime di emozione, mettiamola così. Poi un misto di emozione, anche perché lacrime senza emozione in effetti non so se esistano. Però ecco, di un misto forse di emozioni, ma in cui c'era anche sicuramente della gioia. Lo abbiamo inseguito all'arrivo e lo abbiamo fermato un attimo per parlargli. Vi faccio sentire questo breve contributo audio in cui sentite la mia voce, ma anche quella di due... Mi arrogo il diritto di chiamarli colleghi, ma in realtà sono due, forse anche maestri per certi versi, che sono Enzo Vicennati e Ciro Scognamiglio, che erano con me a inseguire Pellizzari all'arrivo. Sono contento, oggi me la sentivo buona dalla partenza. 5 giorni fa ero più da casa che in gara, quindi per me... Cosa hai avuto? Ho avuto tosse, raffreddore, mal di gola e ero più di là che di qua, però grazie alla mia famiglia, Massimiliano Gentili, Leonardo Pieple, la mia fidanzata, sono rimasto e Oggi volevo vincere, però non va bene così. Quando ti sei girato e l'hai visto, che hai pensato? Bastardo, ancora. Però sono contento perché... Hai rivissuto un po' Torino? Sì, dai. In un certo senso. Sì, oggi è andata meglio. Giulio, sei uscito dal gazebo con una maglia rosa in mano. Cosa è successo lì sotto, il vostro incontro dopo l'arrivo? Lui, mio fratello, ieri mi ha scritto e mi ha detto: trovo il modo di rimediare gli occhiali a Pogacar. E quindi sono entrato e gliel'ho chiesto. Lui mi ha dato la maglia e gli auguro tutto il meglio. È il migliore della storia. A questo punto si continua il giro? Sì, siamo all'inizio, dai. Complimenti, grazie. Giulio. Complimenti. Grazie. Complimenti da... E allora, complimenti a Giulio Pellizzari, sicuramente uno dei momenti più emozionanti di questo giro che rimarranno. Lo metto accanto alla vittoria di Alaphilippe a Fano, con quella bellissima fuga con Maestri. Oggi l'emozione di questo ragazzo del 2003, che veramente ti ricordi, Michele, tu ci avevi parlato la mattina di Pompei, la partenza da Pompei. Ci eravamo detti dopo l'intervista: si ritira perché stava tossendo, non stava bene, aveva anche il morale più giù del solito, per quanto scherzasse, perché lui è solito scherzare sempre. Invece ha tenuto duro a 19 anni e adesso ha trovato in questa terza settimana una forma che gli ha permesso di giocarsi una tappa così difficile. Sì, è un corridore a cui mi sono un po' affezionato in questo Giro d'Italia, perché l'ho visto anche al Tour of the Alps, l'ho intervistato anche al Tour of the Alps, l'ho visto fare secondo anche in quella corsa, e lui mi sembra un ragazzo proprio genuino. È buono, è bravo e sempre col sorriso, anche quando stava male gli davo una pacca sulla spalla, magari dicevo: dai Giulio, che adesso arrivano le marche, no? Le tue marche, e lui teneva duro e lui voleva andare a casa. È vero, confermo, anche 5-6 giorni fa me lo diceva a me, microfoni spenti diciamo, però poi ha avuto questa forza oggi di battere addirittura Dani Martinez, no? Nella volata. E poi bellissimo quando dice, col sorriso sulle labbra, dice: bastardo Pogacar. No, perché? Anche me, anche stavolta, sei venuto a prendermi. Sì, Giulio Pellizzari oggi mi ha fatto digerire l'ingordigia di Pogacar con molta più gioia, e mi fa pensare, ci ho pensato molte volte in questo giro, ma oggi forse di più, e mi sento di dirlo, Pellizzari mi ricorda in alcune cose Michele Scarponi. Ovviamente c'è il discorso geografico, quindi la parlata, è uno scalatore, e poi c'è questo atteggiamento, no? Giocoso, sorridente, sempre disponibile. Ora nessuno si vuole fare dei confronti che lasciano il tempo che trovano, però ecco, questo sorriso e questa parlata così simpatica ed emozionante me l'ha fatto ricordare. Ecco. È un corridore felice Giulio Pellizzari comunque, e oggi ne ha ben donde per essere felice, e anche suo fratello, che riceverà questi occhiali, immagino. O se ritiene Giulio alla fine, non lo so. Forse possono fare occhiali da fratello, maglia rosa a se stesso. Io terrei la maglia. Ma con Scarponi, che aveva un soprannome bellissimo, l'Aquila di Filottrano, va trovato uno per Giulio adesso, Filippo, alla fine di questo giro. Ci lavoreremo anche su questo. Noi siamo bravi ad abbinare animali a corridori. E se a proposito di corridori che hanno già un soprannome di animali, sì. Abbiamo incontrato dopo l'arrivo la volpe di Botticino Sera. Michele, dico bene? Fa segno di sì. Sto parlando di Cristian Scaroni, che all'ordine d'arrivo, all'arrivo è arrivato quarto, e abbiamo visto molto attivo anche discutere con i suoi compagni di fuga, gli ho chiesto... Tra i quali ce n'è uno con uno dei soprannomi migliori del gruppo. Che è? Costiù. E qual è il soprannome? Detto Carneade. Perché? Carneade, chi era Costiù? Ah, vero, giusto. È vero. Ho incontrato uno stanchissimo Cristian Scaroni dopo la linea del traguardo, questo è quello che mi ha detto. Cristian, velocissimo. È più la soddisfazione, complimenti intanto, più soddisfazione o un po' di rimpianto anche per questa tappa? Tanto rimpianto, perché fino ai 2 chilometri ci credevo. Sapevo che ero un po' al limite, però mi sono gestito. A volte non davo i cambi appunto per fare gli ultimi 2 chilometri in apnea. Purtroppo non ho preso la vittoria, però sono contento perché dietro campioni così è veramente soddisfacente. Quindi queste discussioni che ci sono state è solo motivo di stanchezza, no? Perché non riuscivi a dare il cambio. Sì, ero davvero stanco, poi... Per me oggi contava solo la vittoria, il quarto, il quinto, il terzo, il secondo non contava nulla. E sapevo che per vincere dovevo essere scaltro, furbo, al contrario dell'altro ieri, che invece ho esagerato. Oggi ho usato le forze, però non è stato abbastanza, però va bene così. Congratulazioni, bravo. Grazie. E allora, un bel Giro d'Italia sta correndo anche Cristian Scaroni della Stana. Un altro bel Giro d'Italia lo sta mettendo insieme giorno dopo giorno, con le sue perle, le sue lezioni di giapponese, il nostro sensei, che ci ha inviato anche oggi la parola del giorno e ce l'andiamo ovviamente ad ascoltare. La parola del giorno. 今日の一言. Freddo. Samui. Samui. Ora anche Michele Pelacci devi dimostrare di star facendo un bel giro imparando le parole di volta in volta. Mi sembra ti impegni, i risultati sono ancora un po' da vedere. Sentiamo se oggi, che comunque è sempre sul pezzo sensei, oggi tappa complicata meteorologicamente o freddo. Sami? Che mi ha colpito molto ma questa non parola. Non era così. Sì, sì, secondo me era simile. Sami è il sono il popolo della Lapponia. E cosa c'hai in Lapponia? Freddo. Ah, tu dici che questo è il collegamento. Secondo me non ci credo molto a questa cosa, ma vabbè. Posso dirti, se vuoi, anche confesso che io un po' i contatti con sensei li tengo. Poi è lui che legge tutto e ci manda dalla sua grande sapienza le parole del giorno. Ma oggi mi chiedeva se per caso dovesse fare neve. E quindi, se vuoi, ti posso dire anche neve in giapponese. Se vuoi segnartela nel suo vocabolario, non me l'ha mandata il sensei perché non era proprio chiaro fosse solo neve. Ma se ti serve, nel caso, quando andrai in Lapponia e conoscerai dei giapponesi, Yuki. Ah, Yuki, facilissimo. Più facile di freddo. Com'era freddo? Samui. È già cambiato rispetto a prima. No. Adesso è un po' più simile rispetto a come l'avevi interpretato la prima volta. Non ci sono corridori giapponesi in gruppo in questo Giro d'Italia, purtroppo. No, purtroppo non c'è Arashiro della Bahrain, grande punto di riferimento. Se ci fossero stati, questa mattina alla partenza avrebbero parlato di Samui e di Yuki, probabilmente. Sì, di freddo, di neve, che abbiamo visto anche noi attraversando la Svizzera, e elementi che hanno caratterizzato e segnato le discussioni anche che ci sono state, e la scelta poi che è stata presa di accorciare ulteriormente la tappa. Si è partiti dopo lo scollinamento del passo. Sì, l'Ofenpass o passo del Fuorn, effettivamente noi è un passo un po' più basso, 2149 metri, rispetto all'Umbrail. Già lì abbiamo preso tanta neve, noi abbiamo preso. Sì, i corridori per fortuna non l'hanno presa, perché l'hanno fatta con i mezzi delle squadre. Con i furgoncini, ricordiamo, con i bus, per cui oggi non c'è stata la gara dei bus, ma la gara dei furgoncini. Sì. Non sappiamo i risultati. Non c'è stata... Un po' deludente la gara dei furgoncini, sì, onestamente. Diciamo così, non c'è stata gara dei bus, non c'è stata nemmeno passerella solita nel centro di Livigno, che è stato un po' l'elemento della discordia tra gli organizzatori e i corridori, che si sono rifiutati di fare questa passerella solita in paese per arrivare poi all'ingresso del tunnel, che avrebbero in ogni caso percorso coi mezzi. Ma di tutte queste polemiche sicuramente avete sentito abbondantemente parlare in TV, in radio, dovunque, sul televideo, dovunque voi dal seguiate, fruttivendolo. Dal fruttivendolo, dal barbiere, dovunque voi seguiate il Giro d'Italia. Noi ne parliamo attraverso due ospiti, due voci che abbiamo raccolto entrambe all'arrivo. Cominciamo con quella più autorevole, perché si tratta del sindacalista, del rappresentante dei diritti dei corridori professionisti. Si tratta di Adam Hansen, e gli abbiamo chiesto diverse cose, ma vi facciamo ascoltare nello specifico una domanda e una risposta a cosa ne pensa Hansen del fatto che si applichino sempre dei limiti e dei regolamenti restrittivi quando il meteo è freddo, oppure piovoso, nevoso, ma non invece quando fa molto caldo, perché non abbiamo mai visto un protocollo entrare in atto quando fa molto caldo, per esempio al Tour de France. E questa è la sua risposta. Yeah, so this year we've just created a heat protocol. So in the future we will have this. So it's in action now, right now. We haven't used it now at the moment, but it's put in place, I think, in the second or third month of this year. But it is in place as of today. The regulations just been updated. There is now a heat protocol. in place. Okay, so and the heat protocol is much better than the extreme cold weather protocol, because the heat protocol has different temperatures and different ranges and different zones. And with the cold, we don't have that. But the heat is much better protocol than the cold one. So do you think, hopefully not, but we can expect situation like this in Tour de France or Vuelta a España? If the weather is a problem, of course, not. Yeah, so because the heat protocol is so specific, it makes it easy for the organisers to set the race a bit earlier or change in that sense. And there's also recommendations for better preparing for the race and things like this. Okay, grazie mille. Thank you very much. Appreciate Ciao. It. Dunque Hansen ha risposto: quest'anno abbiamo creato in realtà anche un heat protocol, quindi in futuro ci sarà anche questo, è già in atto in realtà, non c'è stata occasione di applicarlo, però esiste, le regole sono state aggiornate da questo punto di vista e secondo lui è un protocollo molto migliore dell'Extreme Cold Weather Protocol, perché questo heat protocol stabilisce dei range specifici, delle temperature specifiche e delle zone specifiche, ha detto lui, che invece nel cold weather protocol non c'è. Secondo Hansen, uno dei problemi di questo protocollo del freddo, del tempo freddo, è che è troppo generico e questo porta poi a discussioni infinite, postille, eccetera. Quindi secondo lui questo protocollo del caldo, chiamiamolo così, è molto migliore. Filippo gli ha chiesto: pensi che dobbiamo aspettarci situazioni in futuro in cui viene applicato l'Heat Protocol, per esempio al Tour o alla Vuelta? E Hansen ha detto: essendo così specifico, per gli organizzatori è più semplice tenerne conto, per esempio facendo partire la corsa prima, oppure prevedendo in anticipo dei cambiamenti in questa direzione. Contiene questo protocollo anche delle raccomandazioni per prepararsi meglio alla corsa e così via. Insomma, È un punto di vista comunque interessante, cioè un'osservazione interessante questa, nel senso che poi quando si scatenano le discussioni su queste vicende si cerca sempre di dare la colpa all'uno all'altro, a tutti, distribuirle a nessuno, non so che. In realtà forse quello che ci sta dicendo Hansen è che forse manca un po' di discorso a priori, no? Forse non è stato ancora fatto un reale progetto su come intervenire in queste situazioni e quindi si va anche un po' navigando a vista, e navigando a vista si sbaglia inevitabilmente, a volte si fanno le cose giuste, a volte si sbaglia, come è naturale che sia. Sì, colpisce che queste situazioni si ripetano anno dopo anno, che non si vada appunto a specificare questo regolamento come Hansen richiede, e colpisce che avvenga sempre al giro. Ci sono motivi ovviamente di calendario, di cambiamento climatico, del fatto che si annoia a fare un podcast, il fatto che ci siamo noi non aiuta. C'è anche un'italianità anche nel gestire un po' queste cose all'ultimo momento. Infatti si io ho una soluzione, purtroppo Hansen è andato via, ma io ho la soluzione per questo problema, non ho avuto modo di dirgliela, restando nell'italianità. Perché ci sono sempre i figli dei... c'è sempre il figlio di qualche corridore alla partenza, sì, dell'età. Ogni c'è giorno. Uno c'è ogni volta. Allora, questa volta avevano predisposto la soluzione A, la soluzione B e la soluzione C. Facciamo fare le tre buste o le tre bussolotti e li facciamo pescare al figlio di un corridore innocente e quello si fa. Potrebbe essere un'idea, non sono convintissimo, ma la faremo presente ad Adam Hansen. Ma rimanendo in tema di, come dire, discussioni, polemiche e cose italiane, abbiamo parlato con un giornalista non italiano che però abita in Italia, abita a Livorno. Sto parlando di Steven Farrand di Cycling News. Abbiamo fatto una chiacchierata con lui prima che arrivassero i corridori a Montepana e vi proponiamo questa chiacchierata sulla situazione di oggi, ma poi anche in generale sul Giro d'Italia, su Pogacar e così via. Allora, siamo con Steven Farrand, uno dei nostri colleghi, che possiamo vantarci di chiamarti collega, certo, perché tu sei uno dei più esperti e rispettati componenti della sala stampa. Sai, l'uomo New? Più alto della sala stampa anche, il Max Walscheid della sala stampa. Grazie, quello lo prendo come complimento davvero. E l'altro giorno hai ricevuto un'ovazione sotto il gazebo che è riservato alla stampa all'arrivo delle tappe, perché sei riuscito a trovare il telecomando, il televisore si stava per spegnere, tu hai trovato il telecomando e abbiamo potuto vedere il finale di tappa, quindi grazie anche per questo. Essere uno dei più vecchi, più anziani, con più esperienza serve anche a questo, forse, per aiutare voi giovani di sopravvivere a questo giro. Grazie. Ma con la tua esperienza, Steven, aiutaci un po' a capire, o dici la tua opinione su quello che è successo stamattina a Livigno, che succede un po' tutti gli anni al giro. Perché succede sempre al giro? Purtroppo succede spesso, sempre, ogni anno, e non si cambia, non si migliora, non si impara degli errori del passato, no? Ho perso il conto di quante situazioni sono state così, no? C'è stato lo Stelvio di Quintana, la bandiera rossa, per essere uno più grande, ma ci sono stati tanti altri, anche l'anno scorso, no? Con il protesto dei corridori. Io ho cercato di capire ieri, ho cercato di capire oggi. Secondo me, di base, doveva essere deciso tutto ieri pomeriggio, ieri sera. Secondo me non si può decidere adesso con i corridori che sono più organizzati, con la televisione, con il pubblico, con la sicurezza che è sempre più importante. Non si può decidere, non si può improvvisare la mattina, un'ora, due ore, 15 minuti prima della partenza. Se decidi anche ieri pomeriggio, poi esce il sole, va bene. L'importante è che i corridori corrono in sicurezza. E tutto il resto è una conseguenza. Posso capire anche che il Giro d'Italia, se non parte da Lavigno, se non fa la passeggiata intorno al paese, perde soldi. Però, come ha detto qualcuno prima, è meglio perdere un po' di soldi che la faccia. E purtroppo, se Marovegni e se Arces non spiega queste cose, perché hanno voluto fare questa passeggiata, perché hanno insistito tanto, allora sì, perdono la faccia e la loro credibilità. Quindi si poteva evitare tutto decidendo tutto ieri. Però Steven, aiutami, perché hai detto che siamo giovani, ma io non sono più giovane, fortunatamente o sfortunatamente. Io ho tutta una memoria di tanti anni di Giro d'Italia in cui, quando c'erano queste condizioni, la tappa veniva annullata. È successo tantissime volte. Adesso in un qualche modo le cose stanno cambiando. C'è un'evoluzione, non è più arriva il comunicato la mattina, la tappa è annullata, liberi tutti, e si cerca di trovare una soluzione che deve accontentare un po' tutti. Sì, non forse c'è anche più dialogo fra i corridori, il CPA, non c'è un modo selvaggio di fare tutto, no? Forse questo è grazie a Adam Hansen da un anno da queste parti. Però devono essere uniti, uno non può andare contro l'altro alla partenza, sotto la pioggia, perché, dicevo prima, è la sicurezza che conta, quindi non si può. Anche Vegni e Arces devono disegnare le tappe un po' meglio. So che da Livigno è difficile andare da un'altra parte senza fare lo Stelvio o senza salire in alto. E ovviamente quest'anno da Livigno hanno avuto un bel maloppo di soldi per ospitare la tappa. E Giro sopravvive grazie ai soldi, si capisce questo. Però magari ci vorrebbe più intelligenza, un percorso B. Andava evitato lo Stelvio, perché ogni volta che si cerca di fare lo Stelvio si crea problemi, si incontra problemi, è troppo alto, c'è troppo rischio. Secondo te, tra le opzioni possibili per evitare queste situazioni, esiste lo spostamento, se ne parla ogni anno, del Giro più avanti nel calendario della stagione, una settimana più avanti, quando queste condizioni teoricamente dovrebbero essere meno probabili? Ho letto anche qualche tweet oggi e so che Mauro per tanti anni ha chiesto di spostare il Giro a meno di una settimana, ma Luci non vuole, perché l'ESO non vuole spostare il Dauphiné libero e creare un po' un tappo nel calendario di giugno, quindi c'è sempre resistenza da qualcuno contro questo spostamento. Il mio collega Barry ha notato nel 2028, però ci sono le Olimpiadi molto prima, quindi il Giro d'Italia sarà spostato più in aprile forse che a maggio, quindi c'è da studiare i dati, i calendari. Anche Mauro deve guardare più di un anno o due, perché se no si trova sempre in difficoltà. E dunque, come capite, noi non abbiamo voglia di dilungarci eccessivamente su questa cosa, anche perché noi eravamo al caldo, semicaldo, del nostro furgone, comodi in autostrada, e abbiamo avuto tanto tempo per leggere i gruppi Telegram. Vi faccio una chiusa di questa discussione che ha scritto il nostro amico Stefano, che dice, è un'osservazione, come dire, mediatica sulla situazione, e dice: comunque possiamo dire e fare quello che vogliamo, ma Extreme Weather Protocol sempre assopiglia tutto. Come argomento batte il bisbetico Pogacar, la lotta per il podio, il nuovo Pantani e gli svizzeri che non spalano. Siamo un popolo di santi, poeti, navigatori, allenatori e meteorologi con delega alle relazioni sindacali. Mi sembra una buona chiusa sull'argomento. Ne ha parlato anche Pogacar molto brevemente in conferenza stampa, e ha detto innanzitutto che gli avrebbe fatto molto piacere correre lo Stelvio in maglia rosa, perché ritiene che lo Stelvio sia una delle salite più iconiche, una delle sue preferite al mondo, ma che chiaramente non era possibile. E ha detto che è stata una giornata molto sfortunata per gli organizzatori e sarebbe stata molto sfortunata per i corridori se si fosse corso in quelle condizioni. anche di Tadej Pogacar. Abbiamo parlato con il nostro amico e altro maestro, anche in questo caso Steven Farrand, nella nostra chiacchierata di oggi. Sentite quello che vi dice e poi subito dopo sentite l'immancabile appuntamento della nostra Marta Bacigalupo con il suo Pogacario. Steven, velocemente passiamo invece al giro che ci interessa di più, di cui ci interessa di più parlare, quello sulla strada. Che giro è, secondo te? Ti sta divertendo questa storia definita ormai per la lotta per la maglia rosa? Ti convince o manca qualcosa nella narrazione? Forse è un giro scontato, ma si sapeva a ottobre, quando hanno confermato di poco, cioè sarebbe un giro scontato, però non vuol dire che non è un bel giro. È bello, ma è scontato, si sa che lui è molto superiore agli altri, quindi cerchiamo di apprezzare la sua bellezza, la sua grandezza, perché sicuramente lo è qualcosa di storico, di speciale. In più cerchiamo le altre notizie, altre cose di bellezza. Il lotto al podio, togliamo la maglia rosa, dice che gara è, no? È una gara bellissima fra Thomas, Martinez, Ben O'Connor e anche altri. E poi per l'Italia c'è Tiberi, la maglia bianca. Quindi ci sono, c'è Alaphilippe in fuga oggi, potrebbe vincere, magari vinci domani. C'è bellezza, no? Sempre. Non mi piacciono questi tweet, queste polemiche, tutto quest'anno. Van der Poel è troppo forte, no? Che noia. No, apprezziamo la bellezza in ogni momento del Giro d'Italia. Secondo te c'è un limite oltre il quale poi l'apprezzamento della bellezza diventa ripetitivo, cioè è sempre lo stesso lodare la stessa impresa che si ripete di volta in volta uguale a se stessa? Esiste questo rischio secondo te? Sì, è così, però la bellezza di Pogacar, di quello che fa, secondo me supera questo rischio di noia, di così. Vale la pena, secondo me. Dobbiamo guardare la bellezza. Piove, ma cerchiamo sempre il sole. Ultima cosa, poi ti lasciamo tornare a vedere la tappa e anche noi, che tra poco finisce. Nell'apprezzare la bellezza c'è una grappa o qualcosa che hai bevuto in questa prima parte di giro che hai apprezzato più di altre, o aspettiamo il Veneto che si avvicina? Proprio una grappa tutte le sere ci sta, però purtroppo al Giro d'Italia è un aspetto meccanico di pratica. Non si cerca il gusto della grappa, si cerca solo basta che sia grappa. L'effetto in tutti i sensi che grappa ti farà rilassare un momento, serve quello. Quello facciamo noi 24 su 24, è tutto in funzione del Giro d'Italia, non c'è tanti momenti di sfago. Si può cercare di divertirsi e godere qualcosa, ma come salire in macchina, correre, andare nei corridori, c'è sempre un motivo, no? Non so. Grazie mille Steven, che potete leggere tutti i giorni su Cycling News e ve lo raccomandiamo. Ciao. Grazie. Nel Pogacario di oggi torna Lorenzo Fizza Verdinelli. Ieri lo avevamo conosciuto nella sua professione alternativa, ovvero come grande talent scout dei ciuffetti di Pogacar. Oggi invece ci racconta qual è veramente il suo ruolo nella squadra con i ragazzi. Allora, sono qui con Lorenzo Fizza Verdinelli. E sei il fotografo della squadra? Fotografo e videomaker della squadra. Raccontami un pochino il tuo lavoro, com'è quotidianamente? Allora, il mio lavoro è quello di raccontare quello che succede nella squadra, però al di fuori della corsa, perché nella corsa, diciamo, c'ho già la TV, i diritti. Quindi io racconto quello che è prima e dopo, quindi la preparazione della corsa, quello che sono, come si preparano i ragazzi e i momenti finiti della corsa, quindi le emozioni che ci sono tagliato il traguardo, i successi o i non successi, e quindi cerco di raccontare al pubblico fuori, agli appassionati, quello che è la realtà che è della squadra. Senti, segui sempre la squadra o solo qui al giro? No, io seguo sempre la squadra, non tutte le corse, quelle un po' più importanti, però tutto l'anno sono impegnato. Hai sempre fatto il fotografo sportivo o hai iniziato con un altro tipo di fotografia? No, io ho iniziato con lo sport, con lo snowboard, venendo da Trento, quindi in mezzo alle montagne. E grazie agli sport invernali ho imparato la professione e poi nell'evoluzione della mia carriera sono finito nel ciclismo e ora mi trovo qua. Senti, e della squadra chi è il più difficile da fotografare? Cioè che non ama essere fotografato, si nega un po'? Ma tutti i ragazzi sono ragazzi giovani, quindi gli piace un po' giocare anche con le fotografie. Difficile nessuno, magari ci sono alcuni corridori un po' più timidi o che sono un po' meno al centro dell'attenzione, quindi non sono abituati a giocare, diciamo così, con le foto, con i social, ma tendenzialmente con tutti si lavora bene. Taddei è un nato sotto i riflettori. Taddei è un campione anche in quello, con lui è anche facile lavorare, scherza. Poi anche la mia figura è bello anche per i ragazzi, perché non è a livello di performance, diciamo, e quindi è anche un buon gioco, una distrazione per loro, e quindi si divertono anche a interagire con me. E c'è un'empatia, si crea poi un rapporto, quindi anche di fiducia particolare. Sì, si crea un rapporto di fiducia, soprattutto lavorando all'interno della squadra. I ragazzi sanno che si possono fidare di me, e quando giochiamo e scherziamo sanno che possono esprimersi liberamente. Dimmi qualcosa che non sappiamo di Taddei. Qualcosa che non sapete di Taddei? Non so, è talmente sotto i riflettori che si sa tutto. È un ragazzo abbastanza riservato comunque gli piace anche la tranquillità al di fuori della corsa, è molto innamorato della sua compagna, un ragazzo normale in realtà. Sta molto sui social? Cioè ci tiene all'immagine secondo te? Sì, si tiene all'immagine, ma un corridore di quel livello deve sempre prestarci attenzione, però senza grosse difficoltà. Capelli schifosi. No. Capelli maleodoranti. No. Capelli resi putridi dal tempo. No. Il laboratorio della Cetix hanno messo a punto uno shampoo che non fa finta di lavare i tuoi capelli. Pulizia di pulito. Uno shampoo che li lava mentre li sta lavando. Profumo di profumo. Uno shampoo che senza ombra di dubbio è uno shampoo vero. Bidono shampoo. Bidono shampoo. Con una formula intrigante, una confezione psichedelica e un costo accessibile se lavori da tanti anni e hai le spalle coperte dai tuoi genitori. È tanto bello! Bidono shampoo, un prodotto irrinunciabile, un prodotto deluxe. Cavolo, da quando lo uso sono diventato più gentile con tutti i miei colleghi! Bidono shampoo, se lo usi diventi gentile. Prego, prego, passi. No, no, c'era prima lei. No, prima lei, insisto. Bidono shampoo. Ma quanto costa questo bidono shampoo? Cioè, sono sempre più stringenti i dettagli per acquistarne. Poi cosa, un flaconcino? Però pensa quanto saresti disposto a pagare per diventare gentile. Ma io sono già gentilissimo. Abbastanza vero. Mi chiedo se, visto sì, che abbiamo parlato recentemente dei ciuffetti che spuntano dal casco di Taddei Pogacar, se lui usasse bidono shampoo forse lascerebbe più vittorie di tappa, non so, direbbe prego prego passi lei agli avversari. Sì, forse oggi l'avrebbe detto a Giulio Pellizzari, non lo sappiamo, potremmo pensare di consigliarlo agli amici della UE, amici, mai agli addetti della UE. Se gli sceicchi possono, gli emiri possono permetterselo, possono, perché non lo sappiamo. Questo non lo sappiamo, non lo sappiamo. Comunque, non che loro abbiano capelli schifosi. Chi? No, quelli della UE. No, non mi sembrano putridi, come diceva lo spot. Ma comunque, in tema di pulizia e in tema di... Bel gancio. Pulizia di pulito. Parliamo della doccia che ci siamo fatti gratuitamente oggi grazie al meteo che vige sull'Italia settentrionale in questi giorni. Michele si è fatta una... Scusami, anche sì, ieri ci siamo fatti una doccia gratuitamente, mica male. Vogliamo parlarne subito della doccia Di ieri. Non so, non ne parliamo, non c'è l'angolo della doccia. Parliamo l'angolo degli scivoli. La rubrica più attesa dai nostri ascoltatori. Va bene, parliamone perché siamo stati, insomma, felici di usufruire. Siamo stati invitati dall'Acqua Granda di Livigno, che sì, è il centro di preparazione sportiva dove vanno in ritiro del CONI, centro di preparazione del CONI. Vanno in ritiro non solo gli atleti della nazionale italiani, c'era la nazionale di nuoto slovena, abbiamo visto uscire dalle vasche, e ci dicevano che c'era anche Michael Matthews in questi giorni a fare il suo ritiro. Noi comunque non ci siamo concentrati più di tanto sull'aspetto sportivo, ma ci siamo infilati nell'area wellness okay, che per pelacci lo dico significa benessere, e dopo di allora non saremo più in grado di affrontare un giorno di riposo normale, perché il riposo è stato riposo di riposo, come direbbe il nostro testimonial. Sì, ringraziamo Silvia dell'APT di Livigno per questa opportunità. al rientro dalla nostra gita agli scivoli, alle piscine di Livigno, sono andato in centro perché c'era un incontro al cinema di Livigno e ho incontrato Elia Viviani, proprio lui che ha fatto un bel talk sul ciclismo insieme a Sonny Colbrelli, ma ho parlato con Viviani di alcune cose, temi relativi a questo giro, a Enrico Zanoncello che è un po' uno degli idoli di questa edizione di Gironimo e poi ovviamente a quello che aspetta lui e tutti noi ad agosto con i Giochi Olimpici. Elia Viviani, buonasera, ti abbiamo incontrato al Giro, anche se tu manchi ormai da 3 anni al Giro, mi dici una cosa che ti manca e una che non ti manca per niente del Giro d'Italia? Ma non mi manca per niente la fatica che si fa in salita, perché il giro è sempre duro. Mi manca tutto il resto. Mi manca vincere le tappe, la soddisfazione di provare di essere nella mischia e provare a vincere una tappa. Mi manca scendere dal bus con tutti i tifosi italiani. Mi manca essere sulle salite e avere i tifosi sulla strada che hanno il tuo nome. Cosa che al tour non succede, nel senso che da italiano al tour probabilmente l'unico che può essere stato acclamato negli ultimi anni è Nibali. Quindi speriamo ci siano altri italiani nei prossimi anni. E quello che auguro a Pippo, quello che auguro a Johnny, di andare al tour ed essere dominanti anche là. Però mi manca tutto questo, ecco. In una parola, perché oggi i Pistard vanno così forte e influenzano così tanto le gare su strada? Cos'è cambiato? Perché è diventato un ciclismo di qualità e non di quantità. E quindi penso che il lavoro fatto in pista corto e di alta intensità sia poi un qualcosa che anche su strada stanno cercando di replicare. Effort da 1, 2, 3 minuti sono quelli che adesso fanno la differenza. E quindi penso per questo motivo. E poi ci sono i soliti motivi di scaltrezza per quanto riguarda i pistar, di esperienza. Vedi Benjamin Thomas con la fuga. Tutti dei tips che comunque possono aiutare poi quando vai su strada. Senti, tu sei compagno attualmente di un grande campione, Geraint Thomas, sei stato compagno di grandi capitani. Come si fa mentalmente ad affrontare una situazione in cui c'è un avversario talmente superiore che quasi viene da rassegnarsi, no? Invece tu devi provare in ogni caso a batterlo, a provarci, no? Come si fa mentalmente? Ma secondo me mentalmente uno come Geraint Thomas ha accettato la superiorità di Pogacar e sta cercando il momento in cui mettere veramente il mattoncino sul secondo posto. E perché no? Provarci, ma è irrealistico pensare ai 6 minuti di guadagnare 6 minuti e 40. Però nell'ultima settimana l'esperienza di Thomas porta che secondo me un giorno lo farà fatto bene per o distanziare il terzo e il quarto o perché no vincere la tappa, che sarebbe un premio a una carriera, quella di Geraint Thomas, che è stata fantastica e che lo è tuttora, perché stiamo parlando del secondo più forte al Giro d'Italia in questo momento. Quindi Geraint Thomas ha una forza mentale che va al di là di qualsiasi altra persona, quindi la sua preparazione, arrivare lì senza delle certezze, senza risultati prima del giro, ma arrivare qua ad essere sempre là è qualcosa che lo ha sempre contraddistinto. Non per niente ha vinto un tour, tutte le posizioni del tour, primo, secondo, terzo, quindi siamo veramente orgogliosi di lui. Senti, un'altra cosa straordinaria di Pogacar è che sta simpatico a tutti, anche ai colleghi, agli avversari. Secondo te c'è un limite oltre il quale questa simpatia, questa guasconeria può diventare arroganza? Esiste questo pericolo in lui? Esiste, ma non è ancora percepito, perché comunque come lo fa facendo divertire, no? E quindi come fai a prendertela con uno che fa facendo divertire? Cioè, probabilmente non le vittorie, perché il campione vuole sempre vincere, ma situazioni di gara potrebbero renderlo antipatico. Viene da pensare la volata tirata a Molano chiudendo su Narvaez, che qualcuno ha interpretato come ripicca per il primo giorno. Cioè, queste situazioni hanno una linea sottile tra l'arroganza e la volontà magari di ripagare il compagno che lavora per te, però è una persona talmente genuina, talmente giovane, bello che per il ciclismo che non ci si può voler male assolutamente. Due ultime cose. Una delle interviste più divertenti che abbiamo fatto quest'anno al Giro è con Enrico Zanoncello, che sappiamo avere un legame di parentela, sì, con la te. Mamma, le due mamme sono cugine, quindi siamo cugini in secondo grado. E lui ha detto che vi sentite tutti i giorni durante il Giro, sì, così sì, sì, che sì, vi lui dite? Ah, beh, sicuramente quando è entrato nel top 10, un bravo è partito, perché il suo obiettivo comunque qua era centrare le più top 10 possibili negli sprint. È il suo primo Giro d'Italia, quindi sono stato il primo a dirgli, quando mi ha chiesto vado o non vado, perché potrei essere nella squadra, perché lì comunque la selezione per parteciparli c'è, e ho detto secondo me è il momento di, quindi è giusto che se ti senti bene, sei in forma, è giusto che provi anche questo, perché il vero ciclismo è lì, quindi lo devi provare, e lo sta facendo benissimo, perché è andato forte in salita per restare con i gruppetti, si butta nelle volate, quindi bravo. I suoi compagni dicono che è il velocista più forte del mondo, che gli manca per arrivare, forse quello è Milan in questo momento. Sì, Milan è il velocista più forte del mondo in questo momento, e a Enrico sicuramente manca dell'esperienza, perché ha fatto tantissime gare di secondo livello nei primi anni, ha vinto tanto, anche perché è uno che ha vinto 4-5 corse lo scorso anno, quindi ha già vinto a Giro d'Abruzzo, quindi sta alzando un po' l'asticella. Gli manca l'esperienza di essere nella mischia con Jonathan Milan, con Fernando Gaviria, con Merlier e con questi, quindi dai, sono ancora due volate, una a Padova dove ha la fidanzata che vive anche, quindi che è di Padova e quindi ha magari qualche motivazione in più per una top 5, vogliamo, e Roma, dove a Roma contano le energie rimaste nella tanica, quindi speriamo che gli sia rimasto qualcosa. Non ti chiedo niente su agosto, anche perché tu non sei scaramantico, però non facciamo che hai detto già tutto. La verità è che su agosto siamo ambiziosi, l'ambizione è alta, al femminile e al maschile, la nazionale di pista italiana probabilmente va a affrontare le Olimpiadi con più aspettative di tutti, perché quartetto competitivo, competitivi nell'Omnium, nella media siamo degli outsider perché abbiamo corso poco insieme io e Simo, al femminile le ragazze sono tra le più forti al mondo, Paternò è ritrovata che potrebbe puntare una medaglia nell'Omnium come ha dimostrato di essere, e la Madison, come detto, siamo rispetto agli anni 90, ai tempi di Villa e Martinello, siamo un po' più outsider perché siamo concentrati molto di più sul quartetto, ma è normale, dove nel momento in cui il quartetto con il tempo è una medaglia, comunque lavoriamo l'80% su quello e il 20% sul resto. Grazie, gentilissimo, e auguri per quello che sarà. Grazie adesso. Mille. Ciao. Grazie, ciao ciao. Michele, tu nel giorno di riposo non ci hai fatto compagnia nei nostri giri tra piscine e incontri con campioni olimpici, ma ti sei dedicato alla bicicletta e ti sei fatto la doccia sia ieri che oggi gratuitamente sulla seggiovia, perché oggi tu hai voluto prendere la seggiovia per andare a Montepana all'arrivo, cioè sei arrivato con noi ma poi hai fatto un giro ulteriore in seggiovia. Dici perché, dici cosa hai sentito, hai colto. Intanto voglio tranquillizzare la mia madre, faccio tutte le sere le docce, mi lavo, mi cambio le mutande, tutte queste cose le faccio, però a me gasano i mezzi alternativi al Giro d'Italia. Siccome voi non mi avete fatto prendere la seggiovia che dal centro di Selva portava all'arrivo, ne ho presa un'altra, che andava ancora più su, a un monte di cui adesso sentite, e quindi ho sfruttato questa opportunità. Oh, che bello, finalmente i miei colleghi a Gironimo mi hanno fatto fare ciò che sognavo da tempo, forse dal primo giorno che ho iniziato a seguire il Giro d'Italia, ovvero una gita in seggiovia. Seggiovia che è un po' la bicicletta dei mezzi di trasporto della montagna, perché se la funivia è, diciamo, un autobus, funivia, no? Avete tutti in mente, grande cassone, diciamo, da 100-120 posti, persone tutte ammucchiate, è un po' un autobus di montagna, e l'ovovia invece è una specie di taxi, uno shuttle, ok? Perché sono tanti piccoli ovetti che vanno su e giù da 8, 10, 12 posti. Ecco, la seggiovia, no? Essendo aperta, essendo così naturale, così immersa nell'ambiente, è esattamente perfetta per vedere il panorama, anche per assaporare tutto quello che c'è attorno alla montagna. Ora sono sulla seggiovia Monte Seura, che porta dal Monte Pana al Monte Seura, immagino, e c'è anche una simpatica cappottina trasparente, la quale mi permette di non bagnarmi, perché sta piovendo di brutto, ma di brutto brutto, e mezzo di trasporto che permette anche di non bagnarsi, cioè tutti i comfort praticamente. Mancano 18 km all'arrivo, alla Philippe sento che sta attaccando dagli speaker sopra, ma io sto andando sopra verso la nebbia, c'è un nebbione clamoroso, speriamo che di non venire inghiottiti da questa nebbia. Ecco, siamo arrivati, bellissimo viaggio, anche se piove, e insomma seggiovia è sempre godibile, tranne quando c'è la nebbia, un sacco di nebbia, non ho visto granché, ma Monte Seura, e siamo con Linda, che di lavoro fa? Agente in impianti a fune. E sei di Santa Cristina o Bergamo? E che ci fai qua? E per conoscenze, conoscevo il macchinista, cioè quello che regola il motore, diciamo, di un'altra seggiovia, e poi avevano bisogno e mi hanno chiesto. Che cosa rende speciali rispetto agli altri impianti a fune le seggiovie? Allora, seggiovia in primo luogo rispetto a un impianto a fune tipo funivia è diverso, perché in primo luogo ti prendi tutto il vento, l'aria in faccia, che può essere positivo durante le giornate di sole e negativo durante le giornate di pioggia. però tipo questa per esempio ha le cupole, quindi è positivo, ecco come aspetto che almeno dalla pioggia si è riparati. Poi, ma per me la seggiovia è più bella perché vedi anche tutto sotto, di lato, hai una vista a 360, sulla cabinovia non sempre, ecco quello sì. Seggiovia, migliore impianto fune ufficiale? Per me sì. Adesso io scendo perché c'è l'arrivo del Giro d'Italia, tu non te lo guardi? Non lo so, non vi... avevo la diretta su Rai 2, avevo la diretta su Rai 2 dal telefono. Fantastico, allora io scendo adesso e tu buon lavoro, grazie. Grazie, ciao, buona giornata. Siamo alla stazione a monte della seggiovia di? Monte Saura. E stiamo parlando con? Nico, il macchinista. Macchinista che fa quale lavoro in una seggiovia? Noi facciamo fuori stagione i lavori di manutenzione, adesso quando sale la gente noi stiamo qua, siamo disponibili per i clienti, no? Stiamo attenti, facciamo le prove giornaliere sull'impianto, tiriamo fuori le sedie la mattina, facciamo le prove, facciamo i controlli, insomma guardiamo che del funzionamento regolare. Qual è l'intervento di manutenzione che fa più spesso? Bah, dipende, di solito se è tutto regolare si dà una controllata, si dà una ingrassata, una pulita. Specialmente pulizie sono, diciamo, possiamo dire. Ascolta, Nico, tra poco arriva il Giro d'Italia, tu devi stare alla seggiovia o puoi andare a vederlo? No, devo stare qua perché quando l'impianto gira io il macchinista devo stare qua. Grazie mille, buona giornata. Michele Pelacci sale, Michele Pelacci scende, Michele Pelacci plana soprattutto quando scende, e lo avete sentito che è tornato vivo da questa avventura così nel freddo e nel meteo avverso. Come potete intuire che è tornato vivo dalla pedalata di ieri, svolta in buona parte a ruota di Tratnik, Walter e un professionista che non è al giro, ma salutiamo, è di Sondalo, Alessio Martinelli della VF Bardiani. Eppure sei sopravvissuto, per cui hai delle potenzialità, diciamo, nel World Tour, se qualcuno è interessato a contattare Michele Pelacci. Noi siamo gli agenti, e la quota non è semplicissima per acquisirlo, però noi siamo disponibili ad aprire qualsiasi trattativa. Come avrete intuito, e come sarà anche facile da intuire, questa mattina non siamo andati a fare delle interviste, anche perché penso che ci avrebbero accolti in maniera non esattamente compiacente i corridori con la testa altrove e il meteo inclemente che circondava loro, ma anche noi. Vi facciamo però sentire un incontro di un'altra mattinata, che è un incontro che ci ha lasciato, ha registrato Marta prima di partire e ci teneva a lasciarcelo, che è un incontro con Torres della Movistar, e sentite, ve lo introduce Marta. Disclaimer, il seguente contenuto è powered by l'Istituto Cervantes ed è sicuramente valido ai fini del conseguimento dell'esame DELE. Ho incontrato Albert Torres Barceló, che è stato appunto campione a crono negli Under 23, è stato campione in varie e svariate specialità su pista, ma per tutti questi dettagli vi rimando alla sua pagina di statistiche o alla sua pagina Wikipedia. Fate attenzione però, vi ricorda che... la disambiguazione è necessaria perché non è il promotore di salsa e balli sudamericani, quindi c'è un'omonimia. Sentiamo cosa ci ha raccontato. Hola, come ha sido este giro so far? El giro ha ido muy bien. La primera parte, la primera semana hemos conseguido una victoria, así que para nosotros, para el equipo es muy importante y aún queda mucha montaña que tenemos escaladores para intentarlo. ¿Estás pronto? ¿Listo? Sí, siempre. Tenía muchas ganas de estar aquí en este giro, lo conozco la carrera, así que intentaremos, como siempre, intentarlo. ¿Cosa te gusta hacer cuando no estás en la carrera? Cuando no estoy en carrera realmente es como todo muy monótono y todo dinámico en ese sentido. Masaje, descansar, hablar con la familia... que tuve la suerte de que vinieron la mujer y el niño, cenar, descansar, dormir, o sea que prácticamente todos los días son iguales. ¿Durante el invierno, fuera de la estación? Recargar pilas con la familia y ver a los amigos, ¿no? Que cuando estás en temporada muchas veces no puedes estar y aproveches también para hacer algún viaje, un viaje diferente al deporte. Perfecto, que tengas suerte. ¿Y cómo va mi español? Pero hemos hecho la entrevista. Ok. Gracias. Chao. Ciao, com'è stato questo giro finora? Il giro è andato molto bene, la prima settimana abbiamo ottenuto una vittoria, per la squadra, per noi è stata molto importante, vi ricordo è quella di Pelayo Sanchez, e ora c'è molta montagna, abbiamo gli scalatori per provare a fare qualcosa, e infatti l'abbiamo visto. Gli ho chiesto poi se si sentisse pronto, ovviamente sbagliando tutte le parole in spagnolo. Sì, mi ha detto, sono sempre pronto, avevo molta voglia di stare qui a questo giro, conosco le strade, così ci promeremo come sempre, sempre provare. Gli ho poi chiesto che cosa gli piace fare quando non corre in strada. Mi ha detto che in realtà è tutto molto monotono, ma allo stesso tempo dinamico, massaggi, riposare, parlare con la famiglia. Mi ha raccontato che ha avuto la fortuna di avere con sé ospiti moglie e figlio, che vi dico si chiama Martin, e abbiamo visto tutte le foto mentre Tio Fernando Gaviria lo sollevava. Insomma, cenare, riposare e dormire tutti i giorni sono un po' uguali. Gli ho spiegato che in realtà ero curiosa di sapere cosa facesse anche finita la stagione. Ricaricare le batterie e stare con la famiglia, perché durante la stagione, la famiglia e gli amici, perché durante la stagione spesso non può, e ne approfitta anche per fare qualche viaggio diverso da quelli sportivi. Abbiamo chiuso l'intervista chiedendogli come fosse andata con il mio spagnolo, se avessi superato l'esame, e lui ha mentito spudoratamente dicendo molto bene, visto che abbiamo fatto l'intervista. E chiediamo scusa a tutti gli ascoltatori di lingua, insomma a tutti gli ascoltatori ispanofoni, e salutiamo Albert Torres. E allora vedremo se Albert Torres Barceló della Movistar sarà protagonista anche domani, se la Movistar vorrà come oggi mettersi in mostra e far fatica in testa al gruppo. Se lo farà, perché lo farà, Michele? O meglio, in che contesto, che tappa ci aspetta domani? Pozzo di Scienza Parmense, prego. Ci aspettano 159 km da Selva di Val Gardena a Passo Brocon, dove ci attenderà forse con questo lungo nome d'arrivo un acrostico in cui Leonardo Piccione ci spiegherà un riassunto forse delle battaglie napoleoniche. Il primo GPM è comincia subito, si parte in salita domani, è Passo Sella, 9 km al 7%, poi il lungo fondovalle della Val di Fassa fino a Predazzo. Qui una lunga ascesa, più che altro agevole per i corridori, quasi in realtà, i 2000 metri di Passo Rolle, si costeggia per diversi chilometri il lago di Paneveggio. Consiglio molto Passo Rolle, molto bello. Pensa, Filippo, che è la prima salita dolomitica entrata a far parte del Giro d'Italia nel 1937. La tappa dolomitica fu Vittorio Veneto Merano, 227 km. Vinse Storer. No, è uno scoop. Gino Bartali, nel 37, grande Gino. Quella tappa fu caratterizzata dall'ascesa di Passo Rolle e Passo Costalunga. Passo Rolle, che come ben sai è, diciamo, sottostante a le pale di San Martino, uno dei monti più iconici d'Italia, alla Baita Segantini, quella del pittore intitolata a Giovanni Segantini. A un certo punto abbiamo la cena, tu vai pure con la tua descrizione di tappa, però tieni presente. Hai ragione, ho fatto un po' troppo pozzo vivo, mi sono un po' troppo immedesimato per una volta che in quei posti anch'io ho pedalato. Si è impozzettato di te. discesa molto veloce, molto lunga, fino a Fiera di Primero, dove comincia un finale molto mosso con il passo Gobbera, un terza categoria, e poi la doppia ascesa al passo Brocon. Il primo versante è quello nord-est da Canale San Bovo. Infine, quello più duro, quello sud-est, da Pieve Tesino. Il finale è una salita di 12 km al 6,4% con punte al 10%. Secondo me domani ci divertiamo. E ci divertiamo, va bene, ma chi vince adesso? Questa è la domanda, pronostico. Domani arriva la fuga e vince Damiano Caruso. No, è lo stesso pronostico che volevo fare io. Davvero? Eh sì. Vabbè, si può fare lo stesso pronostico. Sì, però allora cambio forse. Come cambi? Non lo so, vuoi dai. Vuoi sempre distinguerti, che sei un hipster. Dai, Nairo, andiamo con Nairo. Nairo, sempre in fuga, va bene. Io mi ero preparato, uno arriva alla fuga e vince Damiano Caruso. No, si può fare lo stesso pronostico, quello che non si può fare, l'abbiamo detto all'inizio, è pronosticare Tadej Pogacar che vincerà domani verosimilmente. Se ha ancora fame. Tra l'altro domani se vince deve contare con Cioè, riparte sulla stessa mano o fa il conteggio? No, e deve passa, usare l'altra mano. Deve usare l'altra mano. Sì, credo che da regolamento dovrebbe essere così. E il mio pronostico per domani è un corridore menzionato poc'anzi, non so per quale ragione, ma The Destroyer, Michael Stoller. No, l'ho menzionato perché oggi all'arrivo l'ho visto in una scena tenerissima, Michael Stoller, che doveva scendere... Cioè, non era piacevole pedalare questo, cioè comunque arrivati al traguardo io immagino che i corridori la prima cosa che volessero fare fosse scendere al caldo, li capisco molto bene. Invece lui si era cambiato come tutti giustamente, anche poi dovevano riscendere perché i bus erano in basso e aveva lasciato per terra i suoi vestiti sudati e bagnati come fanno in cioè li danno ai massaggiatori o se il massaggiatore non c'è magari li lasciano per terra. E prima di partire era molto preoccupato dicendo ma i vestiti sporchi li lascio lì. Una scena molto tenera e mi confermavano i suoi massaggiatori che uno attento anche a questi dettagli. Mi è stato un momento così, sì, sì, patatone è un, Storer. È un tesorino, Michael Storer, per quanto il suo soprannome sia appunto The Destroyer, ma concludiamo questa ma puntata. Perché è il distruttore dell'antipatia, della sgarbatezza. Ah ecco, in quel è senso. È l'eroe allora... della gentilezza. In quel senso allora funziona, ma adesso noi vi lasciamo ai vostri... impegni che saranno sicuramente più interessanti dei nostri. Il nostro è la cena. È la dopo cena. La sigla, se volete, potete sentire altri 25 minuti di Michele Pelacci che continua a raccontare i luoghi della tappa di domani. Passo Brocon, parlo con te. Faresti meglio a farmi trovare una bella seggiovia domani all'arrivo. Seggiovia o come si chiama? Gondola, ovetto. No. Ovetto, no. Cabinovia, no. Funivia, vanno tutti bene. Tutti bene, allora speriamo che possa farti contento il passo Brocon, speriamo che faccia contenti noi e tutti gli appassionati, voi ascoltatori, ci vediamo domani, grazie, ciao.